America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Un voto in congresso per la riforma fiscale, una polemica per il Russiagate, una fusione fra colossi come AT&T e Time Warner, il pericolo ambientale per le trivellazioni in Alaska. Beh, devo dire, le notizie si accavallano, non mancano qui su Radio 24, ad America 24 ve le ho sempre date in continuazione, ma oggi, ormai in dirittura d'arrivo per il Natale, vi racconto come ho sempre fatto in questi anni il Natale a New York. E oggi parto proprio dall'inizio, dall'accensione dell'albero a Rockefeller Center lo scorso 29 novembre, quando si è aperta la stagione natalizia in città, fatta di luci, di bambini con gli occhi spalancati, di musica per strada, di sogni, perché il Natale a New York, come ve l'ho sempre raccontato in questi anni, devo dire, è davvero speciale. Vi consiglio di venire in città proprio a dicembre, a cavallo del Natale. Okay, is everybody ready? You better cozy up to that button. Let's do the countdown. Ecco, subito dopo l'accensione dell'albero, dall'altra parte dell'esplanade di Rockefeller Center c'è Saks Fifth Avenue, il grandissimo negozio multipiano che anche lui racconta una sua storia e che racconta sempre nelle sue vetrine una fiaba per strada. Quest'anno Biancaneve e i Sette Nani, devo dire vetrine magiche, ma magico è stato l'avvio della stagione natalizia di Saks, con un gioco di luce e di musica, succede sempre tutti gli anni, che illumina tutta la facciata del palazzo. Migliaia di persone occupano Fifth Avenue proprio per vederlo. In questo caso rappresentava il castello della regina cattiva in Biancaneve e i Sette Nani. Ci sono i Sette Nani, c'è Biancaneve, c'è Biancaneve in varie situazioni, sono dei modelli, dei manichini, anzi sono delle vere e proprie rappresentazioni realistiche di quello che è il quadro di una di queste storie. Ecco, non è un congedo, attenzione, perché la cosa bella di Natale a New York è che l'atmosfera natalizia sarà sempre uguale, sempre la stessa. Se ripenso ai Natali in città, sono sempre stati caratterizzati dal ritorno delle stesse cose, delle tradizioni. Ricordo una mia amica carissima che molti anni fa mi raccontava di come la nonna la prendesse da bambina e la portasse a vedere lo schiaccianoci di Tchaikovsky al Lincoln Center. Le sue erano memorie dei decenni prima, però le sono rimaste colpite queste passeggiate nella neve attraverso il parco. E oggi, oggi ci sarà un'altra bambina, un altro bambino che attraverseranno il parco per andare al Lincoln Center a vedere la versione di quest'anno, sempre del New York City Ballet, sempre di Balanchine, sempre uguale. Ecco, sia la continuità che la ripetizione sono la bellezza del Natale a New York. Il ritrovare sempre il cristallo gigante illuminato sospeso sulla 57esima e quinta, ritrovare sempre per strada gli appelli dell'esercito della salvezza, The Salvation Army. Devo dire, sono ogni angolo, legioni di militanti per la carità natalizia sono lì nel freddo con questi cappottoni blu, sciarpe rosse, berretto militare, gli uomini cappelletto blu, le donne, così molto ottocenteschi, quasi sempre in coppia, possono essere anziani, giovani come quelli che ho visto ballare, tutti hanno le campanelle. Ecco, ho fatto una piccola raccolta di tre performance diversi, tutti attorno alla quinta strada, fra la 52 e la 49, appunto fra Saks e Rockefeller Center, che diventa uno dei centri per le performance. Ecco, questa è la collezione. Turn it out. Ecco, ma cos'è la Salvation Army, l'esercito della salvezza? Perché continuiamo a sentirne parlare, poi magari si perde il dettaglio. Devo dire, forse la più antica delle organizzazioni benefiche moderne nasce in Inghilterra nel 1865, fondata da un metodista, il signor Booth, e dalla moglie, per aiutare i poveri. Oggi l'esercito conta, indovinate, 1,5 milioni di soldati, generali, capitani in 128 paesi. Solo in America un bilancio di alcuni miliardi di dollari, tutti raccolti in dotazioni di soldi, di roba vecchia, di denaro, di vestiti, di scarpe, insomma di tutto, e aiuta 32 milioni di poveri. Possibile immaginare un Natale a New York senza lo scudo rosso con la scritta in corsivo Salvation Army? Impossibile. Ma il Natale è nelle case, questo ve l'ho raccontato sempre in questi anni, quanto New York sia una città vissuta nell'intimità delle amicizie a casa. È questa che vi ho fatto ascoltare la prima canzone che ho registrato a casa di amici, con un coro in costume, ma con tutti che cantano insieme questi carol, con testi stampati, con un pianista d'eccezione, il grande Peter Duchin, che è uno dei più interessanti, intriganti artisti dei decenni passati ed è ancora lì. Insomma, a New York, che forse immaginate un po' come impersonale, lontana, fredda, calcolatrice, difficile, grande metropoli, impossibile da penetrare, ci sono parties continui e l'occasione per amici di sempre è quella di ritrovarsi anche qui, e ognuno ha le sue tradizioni, tradizioni decennali, come il party dai trains nella casa che fu di Pulitzer sull'Upper East Side. Devo dire, ogni volta che ci vado, ripensando al nome di costui che ha dato un carattere alla storia del giornalismo, ogni volta che ci vado c'entro sempre con un po' di soggezione. Bene, il Natale dietro l'angolo, l'anno volge al termine, una trasmissione volge al termine, ma i fatti del mondo passano e continueranno a passare per questa sponda atlantica, dove sorgono mille altri approfondimenti, idee, momenti di tensione forte e frontiere inesplorate. Scrivetemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bambini, ragazzi, genitori, nonni, amici, ascoltate, perché Bing Crosby ci dice che Santa Claus, Babbo Natale, sta per arrivare in città. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Little tin horns, little toy drums, rooty toot toots and rum a tum tum. Santa Claus is coming to town. And curly head dolls, a toddle and coo, elephant boats and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. The kids and girls in Barland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas dream. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm a-telling you why. Santa Claus is coming to town. Good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. You mean the big fat man with the long white beard? He's coming to town. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a martedì. Goodbye and get going.